Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo, capitolo 9, versetto dal 12 al 13. Ma Gesù, avendogli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio». Perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Hai mai conosciuto qualcuno convinto di non aver bisogno di alcun aiuto, anche quando la realtà mostra chiaramente il contrario? Provoca tanta impotenza, vero? Vorresti poter entrare nella sua testa e cambiare quella percezione sbagliata della sua situazione. Beh, persone così sono sempre esistite, e il Signore dovette confrontarsi con alcune di loro. Ai tempi di Gesù c'era un gruppo che si considerava sano, i farisei. Si vedevano come giusti, obbedienti alla legge, e guardavano con disprezzo coloro che non seguivano le norme religiose alla lettera. Ma Gesù venne a ribaltare questa visione. La sua missione non era stare con chi si riteneva perfetto, bensì con chi riconosceva di aver bisogno di un Salvatore. «Voglio misericordia e non sacrificio», dice Gesù, citando Osea 6:6. Cosa significa? Che Dio apprezza di più un cuore umile e compassionevole, piuttosto che rituali vuoti. La domanda è: dove ti collochi tu in questa storia? Ti consideri tra i sani che non hanno bisogno di aiuto? O riconosci la tua necessità del grande medico? Cerchiamo di comprendere meglio questo passaggio. Qui Gesù si trova al centro di una controversia con i farisei, scandalizzati nel vederlo mangiare con i pubblicani e peccatori. Per loro quelle persone erano impure, indegne della compagnia di un maestro religioso. Gesù però risponde citando l'Antico Testamento, da Osea 6:6. «Voglio misericordia e non sacrificio». Qui rivela il cuore della sua missione e allo stesso tempo sfida le concezioni religiose del suo tempo. La frase «non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati» non è una osservazione sulla salute fisica, è una potente metafora spirituale. Gesù sta dicendo che chi si ritiene peccatore è nella posizione migliore per ricevere la sua grazia. È un invito all'umiltà e al riconoscimento del nostro bisogno di Dio. Ecco tre verità bibliche di questo passaggio. Numero 1. Rifletti sulla tua necessità di Dio. Come i malati hanno bisogno di un medico, noi dobbiamo riconoscere di aver bisogno di Gesù. Ci sono aree della tua vita in cui hai cercato di guarirti forse da solo, senza ricorrere all'aiuto di Cristo? Nulla possiamo fare separati dal Signore. Numero 2. Sii consapevole della tua realtà. A volte abbiamo un concetto troppo elevato di noi. Ci vediamo superiori agli altri e non ci rendiamo conto della nostra grande necessità. Siamo rapidi a vedere le colpe altrui prima delle nostre. Qui Gesù ci sfida a essere umili riguardo alla nostra condizione. Verità numero 3. Ricorda che Cristo è venuto a cercare i perduti. Gesù si avvicinò ai peccatori, agli emarginati, a coloro che la società respingeva. Oggi continua a fare lo stesso. Ricorda che Cristo è venuto per te non quando eri perfetto, ma quando eri perduto. Come puoi riflettere questo amore redentore nella vita degli altri? La misericordia e la compassione sono il cuore del Vangelo. Solo quando riconosciamo la nostra necessità di grazia possiamo veramente comprenderla e offrirla agli altri. Che questo passaggio ci porti a una vita più umile, dipendente e piena della misericordia di Cristo. Preghiamo. Signore, riconosco la mia necessità di te. Aiutami a vivere ogni giorno consapevole della mia dipendenza dalla tua grazia. Insegnami a essere una persona di misericordia, riflettendo il tuo amore nelle mie relazioni e mostrando agli altri la grazia che tu hai mostrato a me. Amen. Oggi leggiamo Genesi 9 e Genesi 10, Matteo 9, Esdra 9 e Atti capitolo 9. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!